il cinema su Radio Onda Rossa. Tutte le informazioni sulla scaletta di oggi, giovedì 25 giugno del 2015, le trovate sul sito internet della Radio Onda Rossa.info, la voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. Per comunicare con noi, indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Potete ascoltarci in diretta sugli 87.9 in modulazione di frequenza, ma anche in streaming dal sito internet della radio sull'home page c'è Ascolta la diretta. Ecco noi Ernesto Pagano, regista del documentario Napolislam, in uscita in sala oggi giovedì 25 giugno del 2015. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa, Ernesto. Benvenuto, grazie. Allora, gli ho dedicato anche la copertina di questa settimana, l'ho visto alla presentazione qui a Roma, davvero un bel lavoro. Per chi ci ascolta, come lo descriveresti, Ernesto? Beh, Napolislam è un viaggio nella vita di 10 persone, 10 convertiti all'Islam, nella loro intimità, nel loro lato umano, ed è anche un viaggio dentro un lato di Napoli che forse pochi conoscono, ma che è molto molto attuale e molto molto vicino a noi, molto più vicino di quanto noi possiamo pensare. Senti, tutto com'è partito? Napolislam è partito grazie alla un po' alla conoscenza dei primi convertiti all'Islam nei quartieri popolari di Napoli, che una conoscenza è avvenuta diversi anni fa, e che secondo me era la spia di un fenomeno nuovo, nel senso della penetrazione comunque dell'Islam dentro un tessuto sociale che tradizionalmente è occupato da valori che sono legati molto di più a quelli del guadagno facile, a tutta una serie di valori che sono trasmessi anche dalla grossa presenza poi di criminalità organizzata all'interno dei quartieri popolari. Quindi l'Islam a Napoli si è aperto uno spazio in dei luoghi dove tradizionalmente non esisteva, e questo poi ha dato il là per partire in una ricerca più approfondita e la conoscenza poi di altri personaggi che vivevano anche in altre zone della città, e questo ha composto un po' il quadro che è quello che cerco di rappresentare dentro Napolislam, una galleria di persone che hanno scelto la conversione all'Islam, ma che nello stesso tempo si scontrano con e si incontrano con la realtà che li circonda. Ho cercato di registrare anche un po' i piccoli conflitti di civiltà che si verificano all'interno delle mura domestiche, delle case, tra madre e figlia che è sposata con un algerino e quindi si converte all'Islam, tra marito e moglie, quest'ultima non convinta della scelta di conversione di suo marito, eccetera. Quindi molto spesso poi alla fine si arriva quasi alla costruzione involontaria di una commedia, ma questo sta anche nella capacità dei napoletani di raccontare le cose in un certo modo e di farci anche sorridere e riflettere nello stesso tempo. Sì. Ernesto, ecco, l'aspetto più interessante è che si tratta di tutte scelte autodeterminate rispetto all'abbracciare un credo religioso. E volevo chiederti quali sono gli aspetti dell'Islam che più hanno influito nelle loro scelte, quali che sono risultati più accattivanti in questa conversione. Sì, ci sono vari fattori, vari elementi che poi hanno portato queste persone a convertirsi, ognuno ha un po' la sua storia personale, si va dalle conversioni indotte un po' dai matrimoni misti, che sono comunque una realtà in Italia anche a causa della pressione migratoria che è sempre più importante, no, nel nostro paese, ma ci sono anche altre storie di persone che invece sono state attratte magari da quel lato di un po' di recupero di purezza del rapporto con Dio, nel senso di un rapporto senza intermediazione. Molti convertiti che ho conosciuto criticavano spesso la Chiesa, l'intermediazione della Chiesa nel loro rapporto con Dio, forse per una loro forma di disillusione poi nei confronti dell'istituzione Chiesa. Dico perché molti poi provengono anche da una pratica della religione cattolica anche molto forte. Cioè addirittura una delle ragazze che racconta in Napoli Islam, che insegnava catechismo ai bambini prima poi di convertirsi. Poi ci sono anche c'è anche l'aspetto, se vogliamo, di un progetto sociale, come dire, più giusto, nel senso c'è anche la ricerca in qualche modo attraverso l'Islam di giustizia sociale, e questo lo ritroviamo in personaggi come Salvatore, ad esempio, che è un ex disoccupato organizzato, militante del movimento dei disoccupati organizzati di Napoli, che poi decide di convertirsi all'Islam, deluso dai fallimenti e dalla corruzione che ritrova nel suo stesso movimento. Quindi l'Islam diciamo è multiforme, viene letto da varie prospettive, da vari punti di vista, e quindi non c'è una spiegazione unica, nel certo. senso non c'è una ragione unica nella conversione, ma è anche interessante proprio questa molteplicità di aspetti che hanno indotto queste persone poi alla conversione. Sì, sì. Senti Ernesto, è stato premiato al Festival Biograph Film Festival pochi giorni fa. Che formula distributiva avrà? Quante sale sarà possibile vederlo? Ecco, per chi bazzica in questo mondo sa che la distribuzione è una cosa che si costruisce giorno per giorno, soprattutto con i documentari. Comunque Napoli Islam sta avendo un buon riscontro di pubblico ed è uscito già in anteprima a Roma, a Milano, oggi siamo a Napoli, saremo a Padova dal 2 luglio e dal 2 luglio ritorniamo a Milano e anche a Roma. E siamo in espansione, nel senso saremo anche in altre città. Se ci seguite sulla pagina Facebook, fate un like sulla pagina di Napoli Islam, riusciremo a tenervi aggiornati. Benissimo. Ernesto, ancora complimenti, un abbraccio e alla prossima. Grazie, un abbraccio a voi. Ciao. Ernesto Pagano, regista del documentario Napoli Islam, in uscita in sala oggi, giovedì 25 giugno. Ritroviamo Elisabetta Antonioni per parlare di Cinemovel Foundation, per parlare di Libero Cinema in Libera Terra, il festival itinerante contro le mafie che parte il 1 luglio e andrà avanti fino al 15 ottobre. Elisabetta, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie Federico, ben ritrovati anche a voi e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Allora, Cinema contro le mafie, raccontaci un po' di questa nuova avventura di quest'anno. Dunque, Cinema contro le mafie, come dicevi, 10ª edizione, parte il 1 luglio dalla Sicilia, da Licata, dove il festival è nato proprio 10 anni fa insieme alle cooperative di Libera Terra. In questi 10 anni abbiamo percorso tanta strada, abbiamo fatto tantissime proiezioni, 80.000 chilometri, 70.000 persone il pubblico, 150 proiezioni, 150 serate, in cui abbiamo cercato di proporre al pubblico le emozioni del cinema portandolo direttamente alle persone, nelle piazze, nei parchi, nei beni confiscati. Per la 10ª edizione abbiamo messo in campo un altro linguaggio, che è questa performance dal vivo che aprirà tutte le serate di Libero Cinema in Libera Terra, Mafia Liquida, un percorso di arte partecipata che è iniziato l'anno scorso, ha un anno di incontri alle sue spalle e quest'anno verrà presentato in tutte le serate, ed è un modo per sottolineare l'importanza del festival, che cerca di fare il suo percorso per il contrasto alla criminalità organizzata. Quindi riprendiamo uno strumento arcaico, possiamo dire, come la lavagna luminosa, utilizzata dall'artista Vito Baroncini, che attraverso il cinema, il fumetto e i suoi lucidi ci racconta l'evoluzione delle mafie. Mafie che, come ricordava Don Ciotti ieri in conferenza stampa, non sono un mondo a parte, ma purtroppo fanno parte del nostro mondo. E all'interno di questo che noi possiamo agire con gli strumenti che possediamo, che conosciamo e che sono il nostro lavoro. Quindi la diffusione del cinema, la diffusione della cultura come antidoto per un atteggiamento passivo, ma nella convinzione che la cultura ci aiuta a diventare persone migliori, ci aiuta a scegliere da che parte stare. Sì, sì. E quindi, ripartendo il 1° luglio fino al 15 ottobre, faremo diverse regioni italiane: la Sicilia, la Calabria, la Puglia, il Lazio, la Campania, l'Emilia Romagna, la Liguria, la Lombardia, con 2 tappe in Europa, a Berlino e a Parigi. Partendo proprio nella programmazione, con quest'anno la programmazione è incentrata tutta su titoli italiani. Mai come quest'anno abbiamo condiviso proprio la decisione dei film da scegliere insieme ai territori, insieme alla località. E quindi apre Alicata, un territorio devastato dall'abuso edilizio. Apriamo con un film, con un omaggio a Rogi e sulla città, lo stesso film che chiuderà la rassegna a Parigi. Alcuni sono film ripescati da questi 10 anni, come Fort Apache, come La mafia uccide solo d'estate, tra gli altri film riproposti che fanno parte della nostra carovana Anime Nere. Poi ci sarà La zuppa del demonio di Davide Ferrario, Let's Go di Antonietta De Lillo, Noi e la Giulia, Take Five, Berlusconi. È un modo per avvicinare alla visione e per riproporre quel tipo di cinema che purtroppo non rientra nella programmazione delle nostre sale. Mm-hmm. È proprio questo in qualche modo che ci ha spinto a dar vita anche a questo festival, il bisogno di crescita culturale del nostro paese. Sì. Elisabetta, senti, in chiusura volevo chiederti: quante sono le persone impegnate stabilmente nella carovana, e poi i riferimenti internet per potervi seguire sul web? Ecco, dunque, le persone impegnate nella carovana, il gruppo storico è formato da 6 persone, tutte quante sul furgone di Libero Cinema, e insieme al gruppo storico di Libero Cinema in Libera Terra, quest'anno ci sarà anche un secondo mezzo, una troupe di Repubblica TV che seguirà le varie tappe. Il sito di riferimento insieme ai social è cinemovel.tv. quasi quotidianamente abbiamo intenzione di pubblicare sul nostro sito e sui social un racconto per immagini, quest'anno per illustrazioni, per fumetto, di quelle che saranno le tappe di questa 10ª edizione. Chi non può venire fisicamente sul posto a seguire le tappe con noi e a condividere questa festa democratica e questa festa del cinema può farlo attraverso il sito. Benissimo. Allora, un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci per le prossime novità. Grazie mille. Ciao, a presto Federico. Ciao, un abbraccio. Elisabetta Antognoni per parlarci di Cinemovel Foundation, per parlarci di Libero Cinema in Libera Terra, il festival itinerante contro le mafie dal 1° luglio al 15 ottobre. Massimo Bondielli, regista del cortometraggio documentario Ovunque Proteggi, che sarà proiettato in piazza Viareggio il 29 giugno. Per chi ci ascolta, perché sarà proiettato in quella data e perché a Viareggio, Massimo? Allora, intanto salve, buonasera a tutti. Sarà proiettato a Viareggio il 29 giugno perché il 29 giugno è il sesto anniversario di ricordo della strage ferroviaria di Viareggio. Sì. E quindi ci sarà una manifestazione appunto in ricordo delle vittime e in quel frangente altre manifestazioni, gli altri eventi, ci sarà anche la proiezione del cortometraggio. Senti, per chi ci ascolta e per i più giovani, ricordiamo anche quell'evento? Sì, certo. Il 29 giugno 2009 un treno che trasportava 14 cisterne di GPL entrando in stazione a Viareggio deraglia per la rottura di un asse. Una cisterna si fora, il gas entra nelle case, un innesco, tre esplosioni e 32 persone muoiono, molte di loro bruciate vive. Questo è l'evento che è successo e di qui appunto è partito il cortometraggio. Senti, la situazione processuale? Il processo sta andando avanti perché ci sono giustamente 32 persone indagate, 9 ditte coinvolte. È un processo molto lungo e difficile che i familiari stanno vivendo con difficoltà, perché ogni mercoledì appunto a Lucca c'è il processo ed è un dolore che si rinnova ogni volta, però sono sempre lì presenti perché vogliono giustamente verità e giustizia. Senti, che canali avete scelto per la proposizione del vostro lavoro, oltre a questa proiezione in piazza? Allora, diciamo che il cortometraggio è nato diciamo come primo passo verso un lungometraggio, che è il fine principale, perché riteniamo che è una storia talmente importante, piena di sfaccettature, che debba essere raccontata in un lungometraggio. Come scelta produttiva abbiamo appunto fatto quella di fare un cortometraggio che portiamo in giro per le piazze, per le sale. Se ora sta girando, ha iniziato a girare in vari festival, ci serve sia per far ricordare alle persone un evento così drammatico che è successo, che purtroppo è stato un po' troppo dimenticato e trascurato, e sia per far crescere curiosità appunto intorno al lungometraggio che vorremmo realizzare. Senti, in chiusura del lavoro c'è anche ci sono anche le dichiarazioni di Mario Monicelli rispetto a questa strage nella sua Viareggio. Sì, perché appunto Monicelli era viareggino, insomma si sentiva molto viareggino, era spesso a Viareggio, e subito dopo l'evento è stato intervistato e ha detto la sua opinione su quello che era successo, e sono delle frasi molto forti che a noi hanno colpito, abbiamo appunto voluto mettere nei titoli finali perché riteniamo molto vere e molto importanti. E proprio a questo riguardo, quando abbiamo fatto questa scelta, abbiamo contattato Chiara Rapaccini, che era la compagna di Mario Monicelli, che è rimasta molto impressionata e colpita insomma dal lavoro che stavamo facendo, e ha deciso di regalarci la locandina del cortometraggio appunto con una sua illustrazione. Sì. Senti, per contribuire alla realizzazione del film, ma anche per informarsi su come sta andando, ci lasci dei riferimenti internet? Sì, allora, se volete interessarvi insomma a questa storia e al lungometraggio, al cortometraggio e al lungometraggio, c'è una pagina Facebook che è Caravanserraglio Film Factory, che è la pagina della nostra associazione, che appunto è la produttrice del cortometraggio, e lì noi mettiamo tutte le varie informazioni sugli eventi, sulle proiezioni future che faremo e come si sta svolgendo insomma l'avanzamento dei lavori. Bene. Massimo, io ti ringrazio, un abbraccio e a presto. Grazie a voi. Ciao. Buona ciao, giornata, ciao. Grazie. Massimo Bondielli, regista del cortometraggio Ovunque proteggi, a Viareggio proiezione pubblica il prossimo 29 giugno, ricorrenza della strage. In linea con Gwendalina Zampagni, regista del film Noi siamo Francesco, in uscita in sala oggi giovedì 25 giugno. Gwendalina, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie di avermi invitato, buona giornata a tutti. Raccontiamo subito la storia di questo film, come tanto qual è l'argomento? L'argomento è un argomento un po' speciale, diciamo, che vuole parlare e raccontare di una storia di amore tra un ragazzo con una disabilità e invece una ragazza senza, unito a un gruppo di amici che lo sosterranno in questo suo percorso di vita, momento di vita. E quindi, insomma, affrontiamo il tema che può far paura, un po' difficile, dell'amore, della disabilità, ma in una maniera, io spero, molto ironica, come spesso i disabili sono, molto leggera e spero anche appassionata. Senti, com'è partito il progetto di film? Il progetto è partito perché io ho avuto la fortuna di conoscere un ragazzo che ha questa disabilità, di conoscere la sua vita, di conoscere anche la sua vita affettiva, cioè questo ragazzo molto giovane, già sposato, e quindi di scoprire come certi tabù, certi preconcetti che io avevo su dei limiti che persone che portavano un handicap potessero avere, e invece ho scoperto che questo non è così, che ci sono soltanto modi diversi di affrontare la vita, può essere più o meno difficile, ma insomma ci sono possibilità molto belle e emozionanti che noi non conosciamo, e ho pensato: voglio raccontare una storia del genere. E da lì ho incontrato altre persone che hanno arricchito, diciamo, il mio percorso di scrittura, e quindi la storia non è vera completamente, non racconto la storia di questo ragazzo, ma diciamo molto verosimile, perché racconto la storia di diversi ragazzi e gli ho rubato varie parti della loro vita e ho costruito, diciamo, una nuova storia. Senti, nel film il protagonista ha la fortuna di avere intorno a sé una comunità tra parenti e amici che gli è molto vicina. Ecco, invece, rispetto alla realtà, per esempio il supporto istituzionale, come si vive, com'è la situazione? Sicuramente c'è tanto da fare, specialmente in Italia, perché spesso queste realtà diciamo di disabilità sono supportate proprio dai familiari, dagli amici che vicini alla persona che ha la disabilità. Invece, rispetto alla mia storia, dove comunque il nostro Francesco, pur avendo una disabilità importante anche visivamente, però è autonomo, e poi ci rendiamo conto che veramente lui è una persona che con insomma dei piccoli trucchi, dei piccoli accorgimenti, delle nuove abitudini, veramente può vivere la sua vita pienamente. Però ci sono delle disabilità molto più gravi dove veramente la famiglia da sola non può riuscirci, e lì dovrebbe arrivare le istituzioni, perché comunque sia nelle situazioni pratiche, dove anche lì il disabile uscire fuori con una carrozzina, con altre cose, è difficilissimo, ma soprattutto nell'ambito dei sentimenti, che sono fondamentali per tutti noi, lì c'è tanto da fare, e io sono appoggio pienamente chi cerca di portare avanti un progetto di legge sull'assistenza sessuale, perché molte persone hanno i nostri bisogni, hanno i nostri desideri, e se non li aiutiamo non riescono a realizzare, ci sono grosse sofferenze, oltre alle loro sofferenze, che insomma una disabilità, anche se io l'ho affrontata in maniera allegra, ironica, e ho visto che queste persone sono così, ma però ci sono comunque delle sofferenze che vivono in più. Certo. Senti, Gwendalina, la scelta del protagonista? La scelta del protagonista è avvenuta, insomma, dopo vari provini, e alla fine io dico ha vinto Mauro Racanati, che è un giovane attore pugliese, perché per me è molto bravo, era molto giusto per questo ruolo. E essendo comunque un attore non disabile, noi dopo le riprese abbiamo avuto 3 mesi di effetti visivi per, diciamo, levare le braccia, detto così fa un po' impressione, ma è la realtà, al nostro protagonista, grazie alla Mocha Factory, che sono una società di effetti visivi italiana strepitosa, che non ha niente da invidiare a quelle americane. E infatti molti che hanno visto per ora il film e il festival erano sicuri che Mauro Racanati avesse questa disabilità. Io inizialmente avevo pensato di prendere un ragazzo con queste caratteristiche, poi insomma avevo anche trovato delle situazioni ma non sono andate poi a buon fine e mi sono poi buttata nella scelta insomma di un attore professionista, e sicuramente ora sono molto contenta perché abbiamo potuto fare un film, forse non un documentario, e poi però con questi effetti insomma siamo riusciti a rendere anche la verità. Senti, da oggi nelle sale in quante copie? Allora, siamo in 20 copie, siamo piccolini, sia noi prima inizialmente come produzione, perché alla fine l'ho prodotto io insieme a un altro regista, Aurelio Grimaldi, che è stato anche co-sceneggiatore della storia, e abbiamo trovato finalmente Microcinema che ha creduto nel progetto, però essendo piccolini per ora usciamo in 20 copie. Se il pubblico ci sosterrà e se andate al cinema, forse insomma riusciamo a fare qualcosina di più. Volevo dire che ci sono poi anche attori oltre al gruppo dei ragazzi che sono tutti esordienti, abbiamo Elena Sofia Ricci, Paolo Sassanelli, Luigi Di Berti, che sono una garanzia e hanno dato una grossa professionalità e una bella cornice al mio film. Bene, sì. Allora, e chiudiamo con dei riferimenti internet per chi volesse seguire il film. Sì, naturalmente se scrivete Noi siamo Francesco e anche Microcinema trovate tutte le informazioni, c'è il trailer, ci sono foto del cast, backstage e anche dove potete trovare questo film in sala. Quindi insomma vi chiedo calorosamente, sosteneteci e amate questo film come noi l'abbiamo amato facendolo e pensandolo. Un abbraccio Gwendalina, grazie. In bocca al lupo. Grazie. Ciao, anche a voi, presto. Grazie di tutto, buona giornata. Bene, Gwendalina Zampagni, regista del film Noi siamo Francesco, in uscita in sala oggi giovedì 25 giugno. Ed eccoci con Andrea Stukovic, produttore e distributore del film Bota Caffè, in uscita in sala anche questo in oggi giovedì 25 giugno. Andrea, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao ragazzi, buonasera a voi, grazie dell'invito. Raccontiamo un po' di questa storia a chi ci ascolta, Andrea. Beh, la storia è semplice, un caffè sperduto in un posto sperduto nell'Albania dell'oggi, che ancora fatica ad uscire da 20 anni di dittatura comunista. Un film un po' vecchia maniera, però che racconta qualcosa di diverso. Senti, come mai questa coproduzione italo-albanese? Non c'era alternativa se si vuole andare a fare un film in un paese così non tanto distante geograficamente, ma distante culturalmente per alcuni versi e molto vicino per altri. Se pensate che molti albanesi parlano l'italiano, lo hanno imparato guardando la nostra televisione. La sceneggiatura era interessante, l'abbiamo trovata insieme al coproduttore albanese durante un workshop in Puglia, ci è piaciuta, l'abbiamo trovato un progetto che avevamo voglia di fare, quindi abbiamo deciso di realizzarlo insieme. Senti, come è uscita fuori questa storia insomma del regime che confinava persone scomode a lui in queste terre di nessuno, a volte anche giustiziandole sommariamente? In realtà le motivazioni sono duplici, non era solo una terra di confine per delle persone invise al regime, era anche un desiderio della dittatura di quegli anni di popolare dei territori, degli spazi, delle aree del paese che non erano popolate per nulla, e quindi l'idea di costruire questi edifici, questi non luoghi, non hanno dei nomi, non sono dei villaggi, vengono chiamati settori, hanno dei numeri di appartenenza, era un po' così una visione urbanista non proprio sensibile all'umanità dei propri cittadini. Senti, è stato girato proprio nei luoghi, avete avuto modo di incontrare persone che li vivono? Certamente, alcune delle persone che voi vedete nel film sono gli abitanti di quel posto. Sì, sì, sì. Ecco, com'è stato il rapporto? Cosa vi hanno raccontato rispetto al loro quotidiano, insomma, anche alla storia di quel luogo? Intanto c'era molta curiosità nel fatto stesso che ci fosse una troupe cinematografica così vicino a casa loro. C'erano sorpresi da quest'idea circense del vedere e realizzare quello che loro guardano solitamente in televisione. E raccontare, in realtà le generazioni di oggi non hanno molto da raccontare rispetto al passato, vivono in quei luoghi senza avere un vero lavoro, senza avere una educazione più o meno sommaria, non tutti ovviamente, solo alcuni, però nella loro difficoltà incredibilmente riescono ad essere sorridenti. Senti Andrea, è uscito anche in Albania il film? È uscito in Albania subito dopo il festival del Carlo Vivari. Il produttore albanese giustamente ha cavalcato il successo e i premi ricevuti dalla critica durante la presentazione a Carlo Vivari e ha fatto uscire il film con il suo distributore di lì a pochi mesi. Com'è stato l'impatto in patria? Molto buono, il film è stato apprezzato. Senti, per quanto riguarda invece la distribuzione italiana, cosa avete pensato? Beh, come avrete letto, il film esce in 10 città, 10 schermi. Sì. Non è stato facile, devo dire, il Luce ci è venuto in aiuto, è una co-distribuzione e il film d'autore è quasi sempre mortificato. Questo è un periodo che lo mortifica ancora di più, l'estate non è mai un momento felice per distribuire un film o per andare al cinema. Ci abbiamo messo tutto l'impegno possibile, le recensioni che sono uscite oggi sono tutte molto positive, il film è piaciuto molto ai critici e a chi lo ha visto e ci auguriamo che il pubblico lo possa apprezzare. Senti, qualche parola sulla vostra esperienza di produzione cinematografica, che storia avete? Ma io faccio questo mestiere da molti anni, in realtà ho lavorato per dei produttori in passato, quindi ho costruito un po' il mio percorso in maniera molto tradizionale, facendo l'organizzatore, poi qualche anno fa ho deciso di aprire una mia attività. Non è il primo film che realizziamo, abbiamo fatto già delle altre cose, da film di Petrucciani a film sul terremoto di L'Aquila di Pisanelli a altri due documentari, uno di Stella Savino, uno che sta per finire adesso di Egidio Ironico. Siamo in produzione con un film di Andrea Pallauro che è un non esordiente, sarà un'opera seconda con Charlotte Rampling. Diciamo, il cinema indipendente in Italia non ha una vita facilissima, però con un po' di impegno si riesce a costruire ciò che si vuole. Certo. Senti, quali sono i vostri criteri rispetto alle scelte dei titoli? Beh, diciamo che una storia mi deve piacere. E poi mi deve piacere anche l'autore, devo trovare una sinergia, non lo so, è soggettivo, dipende da tanti fattori. Senti, per quanto riguarda le informazioni in rete, avete un vostro luogo per Bota Caffè, ma anche più in generale per la vostra produzione e distribuzione? In realtà in questo siamo molto poco tecnologici, c'è un sito internet della società che non credo sia aggiornatissimo, cercheremo di fare del nostro meglio nelle prossime ore e fortunatamente c'è molta stampa e ci sono molti siti di cinema che ripropongono e l'uscita del film con tutte le informazioni, le locandine, il trailer e quant'altro. Bene. Per chi abbia curiosità di saperne di più. Allora Andrea, io ti saluto, un abbraccio e a risentirci per le prossime novità. Grazie come sempre del vostro supporto. Ciao Andrea. Ciao. Andrea Stukowicz, produttore e distributore del film Bota Caffè, in uscita in sala oggi giovedì 25 giugno. In linea con noi Claudio Zammarion, produttore del progetto film in crowdfunding La Seconda Via. Claudio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti, sono molto contento di essere con voi, però non sono Claudio Flammarion, sono Francesco Virga, produttore. Allora, ho sbagliato, Sarajevo. Ho sbagliato tutto, perché ho mischiato le carte in tavola, anzi non era neanche previsto un collegamento con te, perché con te parliamo invece dei ponti di Sarajevo. Ne avevamo parlato con uno degli dei registi coinvolti in questo progetto A più mani. Raccontaci un po' di cosa si tratta. Dai, con la flessibilità sia di un conduttore radiofonico che di un produttore ti dico quindi che questo progetto è un progetto nato un paio d'anni fa, quando ci si avvicinava a in qualche modo le riflessioni per il centenario di quella strage di massa che è stata la Grande Guerra, e si è deciso di raccontarlo attraverso la prospettiva di una città come Sarajevo, che è una città che comunque ha incarnato i demoni di tutto il XX secolo. Quindi è nato un po' come riflessione collettiva, chiedendo a alcuni tra gli autori più interessanti del cinema di generazioni diverse di approcciare in maniera differente storie e frammenti di questo XX secolo e degli spettri che lo hanno abitato. Senti, come si è sviluppato poi il progetto? Avete anche un po' cambiato strada facendo, avete apportato le modifiche rispetto all'idea di base, insomma c'è stato anche un apporto degli autori che sono stati coinvolti? Guarda, sì, il progetto ha una particolarità, aveva un direttore, ovviamente trattandosi di un film fatto di 13 episodi, di 13 registi differenti, la figura chiave era un po' il direttore artistico, diciamo il coordinatore generale, che era Jean-Michel Trodon, questo critico e attivista francese che tra l'altro insegna anche alla scuola di cinema a Sarajevo, e cosa interessante è quello che ha collaborato a far nascere il Festival di Sarajevo nei giorni dell'assedio, ok? Quindi, come dire, non è un personaggio che viene semplicemente dall'Accademia. 13 registi, dicevo, in cui si allineano nomi tra Godard a persone invece anche generazionalmente più giovani, quindi non è stato dato in qualche misura un compito a ognuno di questi 13, quanto si è cercato di articolare lungo il secolo. Come dicevo, Sarajevo sì, è la miccia della Grande Guerra, ma è anche il risveglio dei nazionalismi alla fine del XX secolo, quindi di organizzare un po' cronologicamente questi episodi e che poi ognuno portasse con una sensibilità. Naturalmente tra i registi ci sono Perisic, serbo, Laida Begic di Sarajevo, francesi, portoghesi, italiani, quindi prospettive e vicinanze più sul vissuto o più con un approccio di carattere intellettuale, ideale e morale. Senti, il mosaico che ne è venuto fuori com'è? Cos'è che riesce a legare? Immagino degli sguardi molto, molto variegati. Certo, senti, il mosaico è estremamente ricco ed eterogeneo. Sì. Dentro questa eterogeneità lo spettatore a volte può trovare proprio la ricchezza di spunti molto diversi, e dall'altro può anche un filo perdersi. Però sicuramente ci sono elementi talmente diversi, talmente ricchi e spesso degli sguardi così di qualità che secondo me ha un valore straordinario l'opera. Sicuramente ci sono opere come quella di Kamen Kalev, che è questo regista bulgaro che immagina la notte prima dell'attentato vissuta dalla prospettiva dell'arciduca d'Austria, che è una immagine puramente un'opera di creazione di fantasia, e poi c'è invece il lavoro straordinario di Vladimir Perisic, serbo famoso per aver insomma avuto problemi in Serbia per il grande affresco sul nazionalismo serbo di Milosevic anni passati, che invece ha fatto un episodio facendo interpretare a giovani ragazzi di oggi i testi degli interrogatori, delle motivazioni dei ventenni che avevano deciso, dei ventenni bosniaci che avevano deciso di eliminare l'erede di casa Asburgo, e quindi questo continuo riferimento all'ideale di una Jugoslavia multietnica che avrebbe dovuto nascere. Adesso con il senno di poi sappiamo quindi com'è andata la cosa e capiamo anche il valore di questa operazione. Senti, per quanto riguarda Sarajevo, la visione in loco, che reazioni ha prodotto? Guarda, io ho avuto la fortuna di partecipare alle due presentazioni prime che ci sono state. La prima è stata proprio il 28 giugno dell'anno scorso, quindi la notte del centenario dell'attentato, e poi durante il festival. Naturalmente sono opere, come dicevamo, 13 sguardi, alcuni sono stati percepiti come laceranti, intimi, vicini, altri sono stati percepiti come più, come dire, una proiezione di qualcuno che è molto lontano. Però tutti, a tutti, da parte della popolazione di Sarajevo, è stato riconosciuto, come dire, una grande vicinanza, una grande dignità, perché in molti casi, soprattutto per i registi generazionalmente più vicini a quel tempo, in molti casi diversi di questi registi avevano presentato altre loro opere durante l'assedio in Sarajevo, o avevano fatto comunque film o documentari sull'assedio. Quindi, senza che questo, come dire, fosse far parte di un club degli amici di Sarajevo, ma il pubblico, anche quando delle opere erano magari un pochettino più sul fronte del cinema d'autore, quindi non sempre esaltanti per la godibilità del pubblico, le ha accolte con una grandissima attenzione e una grandissima vicinanza. Senti, per quanto riguarda la distribuzione, che è arrivata un po' come un fulmine a ciel sereno, visto che il comunicato è arrivato poco dopo mezzogiorno e ho deciso al volo, in corsa, di inserirla in trasmissione, come è maturata? Allora, innanzitutto non avevi deciso di inserire la trasmissione, esatto, perché mi hai chiamato in un altro modo. No, scherzo. No, comunque eri previsto. No, siete stati veramente straordinari nell'avere questa brevità. Nasce come esperienza distributiva particolare, nel senso che è distribuito da questo nuovo marchio che è il Milano Film Network. Il Milano Film Network mette in rete appunto i diversi festival della città di Milano, ma nasce poi anche come progetto distributivo di un cinema di qualità d'autore, ma talvolta anche non necessariamente, come dire, di minorità, però a livello nazionale. Il Milano Film Network riesce a lavorare ovviamente soprattutto su base del Centro Nord, ma con una serie di relazioni con diverse sale che si stanno estendendo sia a Roma, infatti il film esce a Roma il 2 alla presenza dell'autore di uno degli episodi italiani, Vincenzo Marra, al cinema Casar, e poi sono in corso trattative per farlo comunque uscire anche in diverse altre sale del centro-sud. È un'esperienza interessante. Oggi e domani abbiamo diverse anteprime a Milano, a Udine, a Perugia, a Saronno. Dal 2 luglio esce in tenitura anche a Roma, a Napoli, e si attende la comunicazione della sala per Firenze, Pisa, Pavia e Bologna. Quindi, come dire, si chiama Milano Film Network, ma è una dimensione nazionale. I riferimenti internet per seguirvi? I riferimenti internet per seguirci sono milanofilmnetwork.com oppure .it, scusate, oppure mircinema.com. Benissimo. Allora, mentre stavamo parlando, ho già inserito il tuo nome e il titolo del film nella scaletta sul sito internet della radio. Sto facendo altrettanto su Facebook, quindi già comparite, ecco, questa. Perfetto. Un abbraccio. E alla Ti ringrazio prossima. Molto e alla prossima, e spero di vedervi in tanti in giro nelle varie sale. Bene. Un saluto. Ciao Francesco. Ciao. Francesco Virga, produttore del film collettivo I Ponti di Sarajevo, in uscita in sala oggi giovedì 25 giugno. Oggi sto facendo un po' di confusione con i numeri. Comunque abbiamo in collegamento Giona Nazzaro per parlare con lui del documentario in uscita oggi in sala, Going Clear, Scientology e la prigione della fede. Giona, ben ritrovato. Grazie per l'invito, bentrovati a voi, compagni di Onda Rossa. Senti, il documentario, ho avuto delle difficoltà per parlarne e allora, visto che in sala c'eri anche tu per l'anteprima, parliamone insieme, perché mi sembra un'operazione importante questa di rispetto a questo fenomeno. Beh, no? Allora, diciamo che formalmente il lavoro, allora iniziamo proprio dall'inizio, insomma, sì, tanto per essere chiari, formalmente il lavoro non mi pare si discosti molto da un'ottima inchiesta di matrice televisiva. Sì. Gibney è un cineasta interessante, però è anche una factory uninominale che ha realizzato nel corso degli anni lavori di interesse variabile. Sì. Però fare un film su Scientology è una roba grossa. Sì. È una roba grossa perché Scientology, e non voglio, è una roba, come dire, estremamente controversa. Negli anni le rivelazioni dei fuoriusciti, le testimonianze si sono configurate come veri e propri racconti dell'orrore, siamo dentro tecniche di manipolazione quasi da lavaggio del cervello, senza contare tutte le transazioni economiche, le finanziarie che si appoggiano a Scientology, insomma una roba di quelle veramente che, come si dice una volta, only in America, solo in America. Per cui il fatto di puntare la macchina da presa su una serie di persone che non solo sono uscite da Scientology, ma che hanno scoperto il classico vaso di Pandora, è un'operazione assolutamente meritoria, è assolutamente un'operazione meritoria, perché mette in guardia rispetto ad una serie di meccanismi che assolutamente deprecabili. Oltretutto punta il dito in maniera molto chiara su una serie di divi dei quali si è sempre saputo della loro affiliazione a Scientology, come Tom Cruise e John Travolta, e lì ovviamente il punto è quando nel film di Gibney si dice che Scientology viene riconosciuta come religione per evitare di pagare le tasse. Sì. Cioè, ci si trova davanti veramente a un paradosso assoluto. Cioè, io di fronte a Scientology mi vengono in mente le società segrete di Fu Manchu, dei romanzi di Sax Rohmer degli anni 20, no? Le lunghe mani di questi grandi. Francamente, si rimane veramente agghiacciati dalla mole di rivelazione, dalla mole di dettagli, dalla infinita crudeltà con la quale sono gestiti i membri poveri di Scientology, perché poi Scientology è un'organizzazione fortemente classista. Sì, se sì, sei Tom Cruise hai la manodopera, la forza lavoro gratuita dei fedeli proletari o sottoproletari che vengono e ti rifanno il bagno di casa. È una semplificazione, ma non è molto lontana dalla realtà. Senza contare poi tutto l'apparato legale di Scientology che non appena si cita da qualche parte Scientology arrivano lettere di avvocati, richieste di danni, risarcimenti e quant'altro. Sì. Giusto per dare due parole su cos'è Scientology. Scientology nasce come idea di Ron Hubbard, uno scrittore di romanzi di fantascienza pulp, che attraverso il libro Dianetics crea una nuova modalità di immaginare la relazione. Cioè, c'è anche tutta una serie di culti, fede, una vera e propria cosmogonia, teologia e così via. tutto questo sarebbe molto anche molto divertente se non fosse mortalmente serio. Sì. È serio nel senso che Scientology Scientology ha messo in piedi una macchina del consenso che produce milioni e milioni e milioni di dollari e sentasse. Esentasse. Infatti uno sì, vai stavi continuando. No, dico, e quindi voglio dire, è ovvio che di fronte alla finestra che apre il film di Gibney su questo fenomeno, le obiezioni rispetto all'eventuale semplicità di fattura del film, che si risolve tutto sommato in una serie molto lunga di teste parlanti che raccontano le proprie esperienze, tutto quanto, tutto passa in secondo piano rispetto al valore informativo del film che Gibney mette in campo. È un po' come l'altro film sugli abusi sessuali perpetrati dai sacerdoti cattolici, Silenzio nella casa di Dio. Anche lì una poco più che una sfilata di teste parlanti che però andavano a tirare fuori storie atroci di cui la maggior parte dei media avevano dato notizie sempre in maniera sporadica. Ovviamente la cosa interessante sarebbe se il film di Gibney si rivelasse un successo a sorpresa, con code davanti ai cinema, con discussioni per mettere in guardia le persone che in genere chi, come diceva Frank Zappa, ti promette il paradiso, molto probabilmente c'ha occhi solo per il tuo portafoglio. Sì. Sono due gli elementi secondo me molto interessanti che rispetto a fenomeni di gruppo così allargati e così influenti risulta un po' anche paradigmatico. Ad esempio per quanto riguarda la struttura in sé, la struttura piramidale e l'egocentrismo dei suoi apici, delle sue teste comandanti, e dall'altro lato la relazione verso il mondo, sia verso i propri adepti che verso il governo degli Stati Uniti, ed è in entrambi i casi una pratica di controllo basata sul ricatto. Poi e fatto sta che insomma Scientology per certi versi ha vinto la sua battaglia contro il governo americano rispetto alle tasse, all'essere considerata una sorta di religione. Infatti questo è l'aspetto più inquietante di tutta la storia. Abbiamo a che fare con una vera e propria macchina di potere ultra strutturata, super funzionante, che ha a propria disposizione una sorta di archivio sterminato, perché l'indottrinamento dei seguaci di Scientology funziona attraverso queste sedute di, che adesso non mi ricordo esattamente il termine tecnico con le quali le definiscono loro, che però si risolve una sorta di interrogatori ripetuti attraverso gli anni, nelle quali i seguaci raccontano delle robe che magari non racconterebbero a nessuno. E poi, come sempre accade in queste circostanze, di fronte a un controllo così pervasivo, le persone finiscono per raccontare cose che magari non sono neanche vere, semplicemente. Cioè siamo a un livello estremamente raffinato di sfruttamento della persecuzione e della paranoia, senza contare il desiderio sempre violento, fortissimo delle persone di aderire, di appartenere, di far parte di qualcosa, perché come diceva Deleuze e Guattari, cioè la vera follia non è tanto il discorso che si singolarizza rispetto alla massa, la vera follia è il discorso che vuole essere parlato dalla massa, il discorso che vuole diventare il discorso collettivo. E Scientology questa cosa la esprime in maniera abbastanza inquietante, e il film di Gibney ha il merito, attraverso i racconti dei sopravvissuti, di spiegare molto bene come si attuano questi strumenti di di controllo e persecuzione e di, soprattutto di organizzazione del consenso. Tutto questo ovviamente trascende molto dalla qualità del film di Begidmi, come dicevo sono poco più che teste parlanti, è materiale un po' ricostruito con piccoli inserti, materiale d'archivio, insomma tutto quello che ci si aspetta da un classico documentario mainstream americano. Però nel caso di Going Clear merita attenzione, perché non è, come si dice, non è proprio esattamente che i film su Scientology si fanno un tot ogni anno. Questo probabilmente, prima che ce ne sarà un altro, passerà moltissimo tempo, e senza contare che comunque questo film rischia di avere una ricaduta positiva rispetto alla consapevolezza di ciò che è Scientology, che anche in Italia una presenza molto attiva, molto forte, molto radicata. Bene Giona, allora sicuramente un lavoro da vedere, perché per certi versi illuminante. Io ti ringrazio, un abbraccio e a risentirci presto. D'accordo, se poi mi arrivano delle richieste di risarcimento da parte di Scientology per diffamazione e storie varie, compagni, iniziate a fare la colletta, perché non fa una lira. Benissimo. Va bene. Facciamo una causa collettiva, benissimo. Ciao Giona. D'accordo, ciao, buon pomeriggio. Giona Nazzaro sul documentario Going Clear, Scientology e la prigione della fede. In uscita in sala oggi giovedì 25 giugno. E stavolta è veramente Claudio Zamarion, produttore del progetto film in crowdfunding La Seconda Via. Ciao Claudio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Pomeriggio a tutti. Prima avevo chiamato un altro ospite dandogli il tuo nome, insomma. Claudio. Senti Claudio, allora, per chi ci ascolta, mi è arrivata questa comunicazione. Il tema è la disastrosa e tragica ritirata dell'esercito italiano in Russia in pieno inverno, e non poteva non interessarci questa catastrofe per quanto riguarda uno degli esiti nefasti del regime fascista. Per chi ci ascolta, raccontiamo anche un po' l'antefatto, perché prima voi avevate già realizzato un documentario in proposito. Noi abbiamo, diciamo che è importantissimo creare memoria visiva per non dimenticare quello che è successo, insomma, quindi per questo, a fronte di tanta letteratura, non c'è un film che parli della ritirata di Russia nel 43. Visto che io sono molto vicino alla storia, perché mio padre era comunque, viveva la sua guerra con la marina, fu naufrago in acqua, e questi poveri ragazzi erano naufraghi in un deserto di neve, lasciati lì praticamente per giorni e giorni in uno spazio enorme, in cui praticamente poi abbiamo perso più di 100.000 persone, quindi è una delle tragedie più grandi, e anche a livello temporale, insomma, in poco tempo abbiamo perso tante persone. Tutti i ragazzi giovani conoscono della guerra del Vietnam, anche il bambino di 3 anni gli chiede che è la guerra del Vietnam, perché ci sono stati tanti film su quello, nessuno sa della ritirata in Russia. Questo ci sembrava un elemento importante, ci siamo affascinati un po' sia dai racconti della documentazione, proprio perché andare a costruire la sceneggiatura del film abbiamo pensato insieme al regista di realizzare un documentario che fosse così trainante un pochettino, anche per un po' per sentire anche come parlavano loro, di che cosa parlavano, che cosa vivevano in questo deserto. Il titolo del film viene dal fatto che la prima via era quella del fronte, della guerra vera, fatta di sofferenza, di fratellanza tra amici e tra persone che si sono trovate a fare lo stesso percorso di vita, e la seconda via era una via che di rifugio un po' più privata, in cui si rifugiavano per cercare di rimanere vivi a meno 30 gradi. Proprio per questo ci ha aiutato tutte le testimonianze, ad esempio di Nelson Cenci, di Vicentini. Nel documentario, cosa che non abbiamo toccato nel film, abbiamo toccato anche il problema dei lager dei sovietici, quindi abbiamo un po' raccontato, e ce l'ha raccontato Vicentini. Sì, sì, sì. Senti, per quanto riguarda, ecco, la documentazione, quali sono state le fonti? La documentazione sono, a fronte di tanta letteratura, Alessandro, il regista Alessandro Carrilli, ha letto molto e ha passato molto tempo insieme a tante persone che sono ritornate per fortuna dalla guerra, quindi ha sentito racconti, diciamo, poi levata tutta la grande letteratura che c'è sulla ritirata di Russia, c'è tantissimo materiale, per fortuna e sfortuna, però c'è tanto materiale, siamo un po' legati a quello. Alessandro ha voluto passare comunque del tempo insieme ai nostri reduci per farsi raccontare che cosa succedeva, qual era il loro modo di parlare, che cosa succede in questo isolamento di persone. Loro riuscivano in qualche modo a cercare di far avvicinare al compagno di ritirata in qualche maniera a quello che avevano lasciato a casa, quindi nel film abbiamo molti spazi temporali, il film ha più di un piano temporale, qui racconta tra sogni una parte onirica che ci aiuta molto a far perdere quella concezione del tempo che perdevano loro quando camminavano per giorni e giorni in un deserto bianco di neve. È proprio documentazione vera, diciamo, perché più non c'è niente di più vero dei racconti dei reduci. Sì, sì, sì. Senti Claudio, allora due informazioni. Una riguarda a proposito della rete, quindi dalla possibilità di seguirvi. Dove si può cercare il documentario, notizie sul documentario che avete realizzato, e poi per informarsi sulla campagna di crowdfunding per la seconda via? Allora, noi stiamo facendo praticamente questa raccolta popolare che ci aiuterà a andare a chiudere un gap finanziario che aveva avuto sempre problemi, che non siamo mai riusciti perché mancava sempre un gap finanziario al progetto. Insieme all'Associazione Nazionale Alpini, che sostiene fortemente il progetto col patrocinio del Ministero della Difesa, dell'Italiana, del Centro Sviluppo Italia-Russia, insomma ci abbiamo un po' di patrocini che ci accompagnano nel percorso, in più non è il settantesimo ci ha dato il logo sulla commemorazione della liberazione 45-15 del settantesimo anniversario. Stiamo praticamente portando avanti un progetto che sia il documentario, si potrà trovare, fa parte di quei presenti, diciamo, di quei riconoscimenti che noi diamo a chi ci aiuta a raggiungere praticamente l'obiettivo che ci siamo da dati, e quindi avremo questo documentario che sarà praticamente insieme, farà parte dei contenuti extra del futuro DVD del film. Ok. Sarà vestito anche con parte del film all'interno, tratteremo sia la parte della ritirata di Russia che la parte dei lager sovietici, cosa che non trattiamo nel film. Una raccolta che si appoggia praticamente, è nata un'associazione che si chiama Associazione della Seconda Via, che fa la raccolta per la nostra produzione Angelica Vision, e insieme all'Associazione Nazionale Alpini che veicolerà insomma tutta la raccolta, più quello che riusciamo a aiutarci uno con l'altro, insomma dall'altra parte non ci dovete lasciare soli a fare un film così importante, sennò ogni volta noi non riusciamo a completare una parte di budget, un minimo veramente bastano pochissimi euro per poter realizzare un film che può rimanere lì, ma per le generazioni anche future potrebbe, il nostro obiettivo è quello di portarla all'interno anche delle scuole. Io sono nato, per fortuna e sfortuna di mio padre, con dei racconti di ragazze a cui è stata levata la vita per un determinato periodo. C'è chi è stato fortunato e è riuscito a riprendere, a chi non è più tornato. Quindi per questo, secondo me, questa grande sofferenza bisogna un po' raccontarla, non possiamo far finta di niente. Claudio, basta veramente poco, insomma. Sì, sì. Claudio, io ti ringrazio, ci sentiamo magari per gli sviluppi prossimi. Perfetto, grazie mille a tutti, grazie del tempo, buon pomeriggio. Ciao Claudio. Ciao. Arrivederci. Claudio Zamarion, produttore del progetto Film in Crowdfunding, La Seconda Via. Eccoci con Patrizia Salvatori di Alphaville Cine Club per parlare della mini rassegna, della mini arena Pigneto, che anche quest'anno ci sarà dal 1° luglio al 31 agosto. Patrizia, ben ritrovata. Ben ritrovato a tutti voi, ciao Federico, buon pomeriggio. Sì, è vero, inizia di nuovo la miniarena, ma lo scoop, la notizia eccezionale è che Federico Raponi, soprattutto non solo perché è Federico, ma perché è più grande di noi per via del nome, e Ottavia Monicelli sono nostri ospiti il 1° luglio. Sì, perché ci sarà una serata dedicata a Mario Monicelli con la proiezione della Grande Guerra, però prima facciamo così, andiamo a ritroso, prima facciamo una panoramica di tutta l'arena di questi 2 mesi di proiezioni e poi chiudiamo con la serata insomma d'inizio che ci riguarda un po' tutti qui da vicino insomma. Dunque la miniarena Pigneto è come tutti gli anni una rassegna appunto indipendente, assolutamente dipendente, indipendentissima del Cine Club Alphaville in collaborazione con il 5° municipio, che ci permette di ospitare la nostra rassegna all'interno del centro anziani più antico del nostro municipio, appunto del municipio 5°. Ed è una rassegna, come al solito Federico, una rassegna dedicata al cinema insolito, originale del passato e del presente, cercando di andare proprio a trovare piccoli focus, spigolature e che in qualche modo fanno la gioia dei cinefili, ma non soltanto, anche di chi ama il cinema del passato, di chi ama il cinema contemporaneo particolare. Quindi abbiamo pensato ad un programma piuttosto sostanzioso quest'anno, a luglio in particolare, addirittura talmente sostanzioso che la prima settimana è una settimana dedicata a particolari eventi. Al di là del 1° luglio, per esempio, c'è un evento dedicato al cartone animato molto raffinato franco-belga Black and Mortimer. Questa è una serata evento con proiezione ad oltranza di cartoni animati per grandi e bambini, ma sono cartoni animati molto raffinati, come dicevo, e sono cartoni animati che quasi è invedibile, è impossibile vedere, diciamo, in Italia, nella nostra città in particolare, perché è anche difficile da reperire. Devo dire che mi sembra una scelta all'insegna del mistero, della fantascienza, dell'avventura, come abbiamo scritto in locandina, davvero tutta da gustare. Ma c'è anche l'Alfa Gallery, noi durante l'anno realizziamo all'interno del Cine Club Alphaville delle gallerie digitali di pittura, e questa sera questo evento non poteva mancare anche quest'anno all'interno della miniarena. Infatti, per esempio, proprio in questa prima settimana, il 3 luglio, ci sarà un focus, una galleria digitale dedicata a quel grande grafico di Montmartre che è appunto stato Toulouse-Lautrec. Ma c'è anche, per esempio, sempre nella prima settimana, l'evento Nanni Loi. Quest'anno ricordiamo Nanni Loi, che compie addirittura due diciamo anniversari, quello della nascita e quello della scomparsa, e ci saranno appunto 2 film. Poi tutto questo si può vedere in www.cineclubalfavil.it. ma c'è anche, per esempio, sempre a seguire una settimana tutta dedicata al rock che è stato rivoluzionario ed anche poi in un certo momento reazionario, e sarà presentato, per esempio, questa settimana è curato dal nostro musicista, nonché giornalista appunto di musicale, che è il nostro grande Andrea Raimondo, che suonerà dal vivo per noi suoi pezzi originali. Ma ci sarà anche una rassegna dedicata al cinema contemporaneo che ci piace di più, un titolo per tutti, Pazza Idea, ma anche, per esempio, Non sposate le mie figlie o La gelosia di Garrel. Ci sarà il teatro dedicato a Dante appunto Alighieri per l'anniversario dei suoi 750 splendidi anni, con una performance scenica dell'attore di teatro Ciro Damiano e la proiezione di un film del 1911 tratto direttamente dall'Inferno. Ci saranno sei giorni dedicati appunto a Roma, e ci sarà la presentazione di un libro che ha fatto molto scalpore, anche questo molto indipendente, di Francesco Crispino, dedicato ai fatti del 72, pre-banda della Magliana. Questo è il 24. Ci sarà un omaggio, per esempio, il 27 luglio al grandissimo regista indipendente Gianni Amico. La Cineteca di Bologna ed il figlio di Gianni Amico saranno con noi per presentare un cofanetto che è uscito recentemente, e con appunto 3 film brevi dedicati al jazz e ad altro, e sequenze da partner di Bernardo Bertolucci, dove appunto il grande Gianni Amico fu sceneggiatore e soggettista. Ci sarà una rassegna splendida dedicata all'Argentina, dove appunto tutti ci divertiremo con film di una cinematografia davvero importante, imponente, simpatica, originale, spiritosa, che sta facendo da padrone da qualche anno questa parte, non soltanto in Sud America ma anche da noi. E infine il 3 agosto, per quanto riguarda il primo mese, ci sarà l'omaggio di Ingrid Bergman, perché quest'anno, come tutti sappiamo, appunto sono 100 anni dalla sua nascita, ma sono anche 35 di Hitchcock, e quindi abbiamo pensato di far vedere il peccato di Lady Considine con la, diciamo, con un'introduzione di un esperto del settore, che è dello stato del settore vive Hollywood, America e non soltanto, che è appunto in questo caso Svezia, Rosario Tondolone. Ci saranno poi tutta una serie di appuntamenti ad agosto, però io su agosto, diciamo, mi riserverei di parlarne, magari, che ne so, se mi ospiterai alla fine di luglio. Ma sì, dai. Ne riparleremo. Perché agosto è work in progress, e esatto, ci sono altre nuove cose che stiamo per progettare, e dunque naturalmente, però ecco, diciamo che è una mini arena molto succosa, molto succulenta, dove trovano posto, come hai visto Federico, varie cose contemporanee, varie selezioni, ma soprattutto anche vari focus su personaggi e, diciamo, storie e artisti e registi e racconti che francamente, insomma, hanno bisogno di spazio. Noi vogliamo appunto fare in modo che questo spazio si possa non soltanto avere, ma che possa essere molto frequentato. Poi ci saranno ancora altre presentazioni, musica, ci sarà la possibilità di vedere altre performance, e soprattutto, insomma, ecco, abbiamo anche sicuramente nostri ospiti anche estemporanei durante le serate, quindi sarà come sempre piacevole sotto le stelle di questo spazio, peraltro che ha, come sappiamo tutti ormai, quelli che frequentano lo spazio di Viale Magistris, ha questa grande possibilità di una tettoia dove noi abbiamo le sedute. Quindi, visto il tempo ballerino che, insomma, ci riserva sempre questo da qualche tempo, diciamo, la stagione estiva, è possibile, noi l'abbiamo già fatto negli altri anni, stare a guardare tutte queste cose di cui vi parlavo, però sotto la tettoia, e così prendere, se non piove tantissimo ovviamente, prendere per nulla acqua, ma invece continuare a vedere belle immagini. Sì. Allora, arriviamo alla serata inaugurale della prossima settimana. Si tratta di mercoledì 1 luglio, La Grande Guerra, un omaggio a Mario Monicelli. Come ti dicevo, intorno a mezzogiorno mi è arrivata la notizia che, insomma, noi mettiamo sempre il condizionale, dovrebbe esserci Matteo Garrone ospite della serata. C'è qui anche con me al microfono, perché tra pochi minuti comincia Tracce di Cinema, c'è Ottavia Monicelli. Parliamo. Ciao Ottavia. Ciao Patrizia. Ciao Ottavia cara, ciao. Allora, non so voi due intanto cosa avete tirato fuori rispetto alla serata e gli ospiti che ci saranno. Noi abbiamo tirato fuori un sacco di cose, veramente, vero Ottavia? Sì, e insieme a me ci sarà anche Giacomo Scarpelli, il figlio di Furio Scarpelli, che è stato coautore della sceneggiatura della Grande Guerra insieme a mio padre, e poi ci sarei tu. E ci sarà anche Franco Montini, e ci sarà sicuramente anche Federico, che sta parlando con noi, e quindi io penso che sarà una serata interessante per vari motivi, e perché ovviamente ricordiamo papà Monicelli, che è papà di Ottavia e forse papà di tutta la commedia italiana, e quindi papà un po' di tutti noi, e perché avremo modo, visti noi, insomma, di così raccontare un po', partendo da Ottavia per arrivare a Giacomo e poi a Franco, a me, a Federico, poi avremo la possibilità di parlare un po', insomma, di questa figura importantissima della storia del cinema italiano, e non soltanto. Il fatto che ci sei tu, Ottavia, ci permetterà anche di comprendere, no, un po' l'uomo, che forse è anche la cosa che una parte dell'uomo, una piccola spigolatura dell'uomo, è così difficile comprendere. Invece io penso che sicuramente ne parleremo, e parleremo, insomma, del segno che ha lasciato un po' con il suo cinema, e del fatto che, insomma, ci sono persone sensibili come te e come altre che, insomma, continuano a tenere vivo il suo ricordo e a diffondere, insomma, i suoi lavori. Ci mancherebbe altro, noi siamo felicissimi. Se viene Matteo Garrone siamo ancora ugualmente più felici, perché Matteo poi, appunto, in qualche modo ha lasciato, diciamo, ha raccontato anche di questo influsso che il cinema italiano di Monicelli ha dato e continua a lasciare al cinema italiano. Quindi ci fa ancora più piacere se, appunto, anche lui, come ci ha annunciato Federico, partecipi appunto a questa serata, perché così veramente siamo il passato, il presente e il futuro. Allora, ricordiamo l'appuntamento e ci salutiamo, Patrizia. Vai. Dunque, allora, La mini arena Pigneto, Il cinema e le grandi storie sotto le stelle saranno tutte le sere dal 1 luglio al 31 agosto alle ore 21 in via Luigi Filippo De Magistris 21 al Pigneto. E il programma di agosto ci stiamo ancora lavorando, ma appunto Federico mi ospiterà poi alla fine di luglio per raccontarvi quello di agosto. Nel frattempo tutte queste belle cose di cui abbiamo parlato sono dal 1 luglio fino alla fine di luglio, appunto, anzi fino al 3 agosto ne abbiamo parlato, alla mini arena. Noi vi aspettiamo, in particolare venite con noi ad aprire l'arena il 1 luglio con noi, con Ottavia, con Federico, tutti insieme a raccontare di Monicelli. Un abbraccio Patrizia, ci vediamo mercoledì. Grazie Patrizia. Grazie, a mercoledì, un saluto Ottavia, un saluto Federico. Ciao. Ciao, grazie, ciao ciao ciao. Ed è tutto per quanto riguarda Visionari di questa settimana. A giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15. Tutte le informazioni le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.